Restiamo animali, trasmissione cruelty free, animalista, antispecista e vegan. Salve e un caro saluto a tutte le persone in ascolto. Questa è Restiamo Animali, una trasmissione animalista, antispecista e vegan che racconta l'attualità e legge le notizie attraverso il filtro dell'animalità. Vogliamo raccontare, attraverso fatti di cronaca che avvengono in Italia e in tutto il mondo, come la società umana si relaziona con le altre specie animali. E intendiamo dire con questo che anche noi umani siamo pienamente parte del regno animale, anche se spesso sembriamo voler ripudiare questa appartenenza. È la puntata numero 747 e parleremo di api, di modelli di sviluppo e di consumo non più sopportabili, di giornate che segnalano allarmi per il pianeta Terra, di orsi trentini e di nuove ricerche sull'alimentazione a base vegetale. La ricetta della settimana, come al solito, è di Gabriele Palloni. La colonna sonora è frutto dell'abilità tecnica e della competenza musicale di Gianluca Masala. Qualche tempo fa, in articoli e interventi pubblici, si diffuse un forte allarme sulla scomparsa delle api. Qualcuno arrivò a prefigurare scenari pressoché apocalittici per le disastrose conseguenze sulla vita vegetale e quindi le produzioni agricole e di frutta legate alla difficile condizione di questi insetti. Gli allarmi erano forse eccessivi e una crisi così acuta sembra scongiurata, ma la condizione delle api in un mondo sconvolto dal surriscaldamento e dall'ampio uso di sostanze chimiche nelle campagne resta delicata. Tant'è che si è sentito il bisogno di dedicare una giornata internazionale, il 20 maggio, proprio alle api, per aiutare la collettività a considerare la loro condizione e valutare se e come intervenire in loro favore. È stata una giornata, dunque, o almeno si spera, di riflessione e in prospettiva di azione. Una proposta interessante è venuta da Greenpeace, la nota organizzazione ecologista, che mette in campo l'idea delle food forest, gli orti bosco, cioè un sistema di coltivazioni che si ispirano appunto ai boschi, quindi senza fare attorno a sé terra bruciata, o almeno terra brulla, come tipicamente avviene nelle nostre campagne. Per Greenpeace gli orti bosco vanno nella direzione della tutela della biodiversità, per la quale oltretutto si è celebrata un'altra giornata internazionale, il 22 maggio. Greenpeace spiega che una food forest o orto bosco simula su piccola scala un ecosistema boschivo su più strati. In questo ambiente piante da frutto, erbe medicinali, bacche, ortaggi e fiori convivono sinergicamente con piante spontanee e animali, creando un habitat ricco di biodiversità. È in questo desiderabile ambito che nascono anche i boschi delle api, aree rifugio per questi e altri insetti, zone che sono anche punti di monitoraggio utili a tenere sotto controllo le trasformazioni in atto. Il primo bosco delle api è nato a Roma nel 2020 ed è stato replicato 3 anni dopo a Cremona. Si tratta, suggerisce Greenpeace, di esperienze da replicare. Quanto ai provvedimenti urgenti per tutelare le api e per farlo su larga scala, la via è pressoché obbligata. Occorre vietare, dice l'associazione, i pesticidi dannosi per la salute degli impollinatori e tradurre in azioni concrete gli impegni assunti con l'adozione del quadro globale per la biodiversità e della strategia UE per la biodiversità al 2030. Still from your pockets and yes I lied. What did you want me to do? I don't know my name and I don't care for friends. How can I take care of you? The stars left, the morning came. You know I'm just a good time girl. Leaving you lonely, I don't care at all. No, I can't be good for you. I'll become wary, you won't get to know me. But what you receive will be pure. I give you small doses cause my heart's been wasted and I can't belong anymore. It's closing time and aftermath. This heartache's been coming on slow. Warm and he's curling, our lips are enfolding. Cold on my chest as he falls. La giornata delle api e quella della biodiversità sono nate per aiutare l'umanità e in particolare i decisori politici a riflettere sulle forme di tutela da concepire per frenare o rallentare almeno la consunzione degli ecosistemi messi sotto pressione dalla logica consumistica e sviluppistica che domina la società presente. C'è poi un'altra giornata caduta in questi giorni che ha invece una funzione più radicale. È un poderoso segnale d'allarme, un allarme rosso, rossissimo, che arriva direttamente dalle viscere del pianeta, con un messaggio chiarissimo. È come se la Terra dicesse alla specie umana: aiuto, per carità, fermatevi. Potremmo riassumere così, con questa espressione, quindi il senso dell'Overshoot Day, ossia del giorno dell'anno nel quale il pianeta esaurisce la sua capacità di rigenerare le risorse consumate. Da quel giorno in poi, tutto ciò che viene prodotto e consumato riduce lo stock di risorse disponibili. La Terra non è quindi più in grado di compensare quanto le viene tolto. Questo giorno è ovviamente variabile, più si consumano risorse, prima cade l'Overshoot Day. Ebbene, quest'anno, per l'Italia, questo potente segnale d'allarme è arrivato il 19 maggio. Siamo quindi andati un po' meglio dell'anno scorso, quando l'Overshoot Day era caduto il 15 maggio. Ma la situazione, evidentemente, resta molto grave. Con questi livelli di consumo, come spiega il WWF, per soddisfare i consumi annuali degli italiani, sarebbero necessarie più di 4 Italie. In altri paesi, ben inteso, va anche peggio. In Qatar e in Lussemburgo, per esempio, già a febbraio si erano esaurite le capacità di rigenerazione. In altri paesi sovraconsumatori come Emirati Arabi, Stati Uniti e Canada, seguiti da vicino anche da paesi europei come Danimarca e Belgio, l'Overshoot Day è arrivato a marzo. Potremmo esprimere tutto ciò anche in altri termini, dicendo per esempio che con 4 ettari globali pro capite, l'impronta ecologica di ciascuno dei 60 milioni di abitanti dell'Italia è notevolmente superiore alla biocapacità che ha a disposizione, pari a solo un ettaro globale pro capite. L'Italia, per continuare coi confronti, ha un'impronta più bassa della media europea, 4,5 ettari globali pro capite, e leggermente inferiore a quelle di Francia e Germania, rispettivamente a 4,3 e 4,5 ettari, ma superiore all'impronta della Spagna, che si ferma a 3,9 ettari. Questi dati però non consolano e comunque collocano l'Italia nell'ambito dei paesi più distruttivi. L'Overshoot Day, in definitiva, è un parametro che mostra la non sostenibilità nel lungo periodo del nostro modello di sviluppo. È un indicatore scientifico, nato nell'ambito della migliore ricerca, e tuttavia è del tutto ignorato dai decisori politici e non compare nemmeno nelle analisi politiche, geopolitiche e culturali dell'intelligenza occidentale. È quindi un indicatore, se vogliamo, del rimosso che caratterizza la nostra epoca, un segno del malessere profondo, della crisi di specie che stiamo attraversando. In questo quadro le maggiori associazioni ambientaliste chiedono politiche di sviluppo sostenibile, investimenti nelle energie rinnovabili, politiche di conservazione degli ecosistemi, una correzione degli stili di vita individuali. Tutto bene, ma la nostra sensazione è che abbiamo bisogno di qualcosa di più profondo, di un riesame dei presupposti stessi della nostra convivenza come specie con le altre forme del vivente. Tell her she can't manage. A proposito di indicatori, ce n'è uno che ci fa capire quanto sia distante la classe dirigente attuale da una capacità di comprensione della fase storica che stiamo vivendo come specie. È un indicatore minimo, quasi uno scherzo, ma in qualche modo significativo. Parliamo del ministro dell'Agricoltura, Francesco Lollobrigida, un uomo che qualche possibilità di azione dal suo posto di potere in fondo ce l'avrebbe. Ebbene, Lollobrigida ha dato prova della propria totale estraneità ai discorsi che andiamo facendo con un intervento riguardante il cosiddetto benessere animale. Una questione che in verità non ci appassiona, poiché mira, nella migliore delle ipotesi, a rendere un po' meno crudeli gli allevamenti industriali, senza però metterli in discussione, né tantomeno promuoverne il superamento. Ebbene, la retorica del benessere animale è anche una delle strategie messe in atto dai produttori per opporsi alle crescenti proteste verso gli allevamenti. Trattiamo bene gli animali, non li facciamo soffrire. Questo è l'argomento proposto. Lollobrigida, che non è nuovo a sortite bizzarre da sprovveduto gaffer, in un post sui social, con tanto di sua foto mentre accarezza una mucca prigioniera di un allevamento, ha scritto: un modo per verificare il benessere animale in un'azienda agricola è chiederlo direttamente a loro. Se si avvicinano all'uomo senza timore, significa che lo considerano un loro amico. Un metodo empirico dunque, quello proposto dal ministro, che nella sua inconsistenza ha comunque il merito, dal nostro punto di vista, di mettere a nudo la fallacia della retorica sul benessere animale. Azienda agricola, icola, icola, oh. Quante bestie allo zio Cesco, esco, ciao, ai pidocchi, occhi, pid, pid, pid. Quante bestie allo zio Cesco, tutte su di sé. C'è la capra, capra, espiatoria, c'è il gomito, gomito, del tennista. E il tennista sconsolato non può più giocare. Nella vecchia cooperativa IVA al 2%, quante bestie allo zio Bruno, 1-1-1, lui che è un orso, poi c'è il ragno. C'è la cozza, tattoo, piane di sbarro, c'è il pesce, pilota, sul pesce volante, c'è il pesce, funzione, sul pesce, capelli. Ma che bella autovettura, icola, icola, ura, ma che bella fattoria, piena di umorismo. Tiene ancora banco la vicenda degli orsi trentini. La notizia più recente è a qualcosa di positivo, poiché l'assessore Roberto Failoni, della provincia autonoma di Trento, ha annunciato che in autunno JJ4, orsa prigioniera del parco urbano del Casteller, a Trento, sarà trasferita nel rifugio Alternative Wolf and Bear Park, situato nella Foresta Nera in Germania. La LAV, Legante Vivisezione, ha commentato la notizia facendo notare che la provincia ha unilateralmente deciso di destinare l'orsa in un altro rifugio, diverso da quello individuato dall'AV stessa in Romania. Si tratta di un santuario tedesco di cui l'AV vorrà verificare, annuncia, le effettive condizioni. La larva in particolare teme che lo spostamento dell'orsa non sia un gesto di reale distensione, bensì il preludio a nuove iniziative contro gli orsi ancora liberi. Massimo Vitturi, responsabile degli animali selvatici per l'organizzazione, ha detto che l'annuncio dell'assessore Failoni conferma la salvezza di JJ4. Non vogliamo però, ha aggiunto, che anche lo spostamento di M49, tuttora prigioniera, e quindi lo svuotamento della prigione del Casteller, possa diventare un pretesto perché la provincia catturi altri orsi. E questo, aggiungiamo noi, evidentemente è il punto chiave della vicenda. Torniamo a parlare delle diete su base vegetale. Croce delizia per chiunque si sia trovato a compiere una transizione dalla tradizionale alimentazione onnivora a un'alimentazione veg, non importa per quale motivo. Quante volte ci siamo sentiti obiettare dubbi, a volte preoccupazioni, per le conseguenze sulla nostra salute. Passati decenni e decenni dalle scelte vegetariane e vegane delle prime grosse comunità sottoposte a esame medico-scientifico, non vi sono in realtà dubbi sulla salubrità dei regimi alimentari vegetariani e vegani. E semmai legittimo, al giorno d'oggi, il dubbio opposto. È chi mangia carne e derivati animali a doversi preoccupare per le conseguenze sulla propria salute. Le ricerche su questo punto sono inequivocabili. E tuttavia il senso comune, anche in ambito medico, continua a fare resistenza a questa constatazione. E quindi circolano ancora dubbi e perplessità sulle diete veg, invece che su quelle che includono carni e prodotti animali, diete, queste ultime, che godono del favore della tradizione. In questo strano ambito di ragionamento vale allora la pena citare una nuova analisi pubblicata sulla rivista PLOS ONE a cura di Angelo Capodici del Dipartimento di Scienze Biomediche e Neuromotorie dell'Università di Bologna e di alcuni altri suoi colleghi, che hanno esaminato poco meno di 50 articoli pubblicati fra gennaio 2000 e giugno 2023. articoli che raccoglievano prove da molteplici studi precedenti. È un'analisi quindi eseguita seguendo un approccio di revisione a ombrello. I ricercatori hanno estratto e analizzato i dati sui collegamenti fra diete a base vegetale, salute cardiovascolare e rischio di cancro. Nel complesso, come era lecito attendersi e come si legge nel rapporto, le diete vegetariane e vegane hanno una solida associazione statistica con un migliore stato di salute su una serie di fattori di rischio associati a malattie cardiometaboliche, cancro e mortalità, come la pressione sanguigna, la gestione della glicemia, l'indice di massa corporea. Tali diete sono associate a un rischio ridotto di cardiopatia ischemica, di cancro gastrointestinale prostatico e di morte per malattie cardiovascolari. Nel riportare i dati della ricerca, proposti dall'agenzia ADN Cronos, si lascia tuttavia una porta apparentemente più che aperta alle diete onnivore. La dieta VEG va bene, titola l'agenzia, ma non è a taglia unica, cioè non va sempre bene per tutti. In verità l'unico dato che viene portato dall'agenzia riguarda le donne incinte, e in questo ambito si dice che quelle che seguivano una dieta vegetariana non avevano alcuna differenza nel rischio di diabete gestazionale e ipertensione rispetto a quelle che seguivano una dieta non a base vegetale. Come si vede, anche qui niente che in realtà sconsigli una dieta VEG alle gestanti. E comunque, come avvertono i ricercatori interpellati dall'agenzia Davide Gori e Federica Guaraldi dell'Università di Bologna, anche una dieta verde deve essere equilibrata. Bisogna evitare l'eccesso di alimenti come i succhi di frutta o l'eccesso di frutta, poiché fanno alzare la glicemia e quindi possono essere controproducenti senza un adeguato bilanciamento. La conclusione è nel campo dell'ovvietà. Non dobbiamo mandare il messaggio alla popolazione che tutto ciò che è vegetale va comunque sempre bene. Nessuno deve pensare, per esempio, che bere solo succhi di frutta e mangiare solo patate vada bene. Surprise, surprise, so you rubbed your eyes. Never knew you to yes, so cool as eyes. Hit a bike then, then we'll stupefy. Ducks categorize us as hard cries. That's a lie, we know why we're occupiers. No blurs but obscure style and these are higher. Profiles are low as soon as we go. As a priest straight from a deeper shade of soul. Deeper shade of soul. Come ogni settimana abbiamo chiesto a Gabriele Palloni, tosco vegan chef, autore del libro Se vuoi essere sano, cucina vegana, edito da Newton Compton, di inventare una ricetta a partire da uno dei temi trattati nella puntata. Sentiamo che cosa ci propone Gabriele. Il pasto gentile è un frigorifero senza crudeltà. Già in passato ho raccontato ricette per creare alternative vegan al miele. Oggi la ricetta di un prodotto tipico calabrese poco conosciuto ma di una bontà esagerata. Il miele o melassa di fichi è infatti uno sciroppo che oltre ad essere un ottimo dolcificante naturale possiede proprietà espettoranti per curare tosse e raffreddore. Gli ingredienti per il miele cotto di fichi sono 2 kg di fichi maturi, possibilmente quelli bianchi calabresi, e 2 litri di acqua. Lavate i fichi e tagliateli a metà, sistemateli in una casseruola e copriteli con l'acqua. Portate ad ebollizione e lasciate cuocere a fuoco lento fino a quando i fichi saranno completamente ammorbiditi, ci vorranno circa un paio di ore. Togliete dal fuoco e versate tutto in un sacco di cotone e lasciate colare per una notte, conservando tutto il liquido. A questo punto recuperate lo sciroppo di fichi e portatelo nuovamente sul fuoco. Lasciate addensare a fuoco lento fino a quando avrà assunto il colore e la densità del miele. Non abbiate fretta e lasciate ritirare bene. Anche in questo caso ci vorranno un paio di ore. Una volta pronto, versate il miele di fichi in vasetti di vetro sterilizzati. In media il risultato è di circa il 10% del peso dei fichi, perciò da ogni chilo otterrete circa 100 g di miele. Con i fichi cotti, praticamente lo scarto del miele dei fichi, potrete realizzare dei dolci o delle confetture. Good times for a change. See the look I've had can make a good man turn bad. So please, please, please, let me get what I want this time. Haven't had a dream in a long time. See, the life I've had can make a good man bad. So for once in my life, let me get what I want. Lord knows it would be the first time. Lord knows it would be the first time. Per questa settimana è tutto. Vi saluta la redazione di Restiamo Animali, composta da Camilla Rattanzi, Gianluca Masala, Gabriele Palloni, Zenone Sovilla, Gianni Ferrarotti, Roberta Marino e chi vi parla, Lorenzo Guadagnucci. L'appuntamento con Restiamo Animali è fra una settimana esatta, stesse onde, stessa ora. Restiamo animali. Restiamo animali. Restiamo animali. Restiamo animali. Restiamo animali. Restiamo animali. Restiamo animali. Restiamo animali. Trasmissione cruelty free, animalista, antispecista e vegan.